Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Reggio Calabria, il prefetto, arriverà l'esercito. Fecondazione, la legge 40 torna alla Corte Costituzionale. Vertice di maggioranza conferma i presidenti delle commissioni. Chimica, 3 premi Nobel, 2 giapponesi ed un americano per studi sulla sintesi organica. E buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. A Reggio Calabria, lo avete sentito dunque, arriverà l'esercito per la vigilanza dei palazzi della Procura della Repubblica e della Procura Generale. Lo ha annunciato il prefetto Luigi Varratta al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Torneremo a parlarne più tardi. Adesso parliamo della legge sulla fecondazione assistita, che sarà nuovamente esaminata dalla Corte Costituzionale. La prima sezione del Tribunale Civile di Firenze ha sollevato il dubbio di costituzionalità sulla norma che vieta alle coppie sterili di accedere alla fecondazione eterologa con ovuli o seme donati da persone esterne alla coppia. Già 2 anni fa la Consulta si era espressa sulla questione del limite dei 3 ovociti da impiantare. Ora la decisione è arrivata, dicevamo, dal Tribunale di Firenze, che stava esaminando la vicenda di una coppia in cui l'uomo soffre di mancanza di spermatozoi causata da terapie fatte in adolescenza. Al microfono di Anna Migliorati, l'avvocato Filomena Gallo, legale della coppia. Andare all'estero comporta una spesa maggiore e comporta anche non avere le sicurezze che si hanno nel proprio paese. Questa coppia, l'ultima volta che è stata all'estero, ha effettuato un trattamento di fecondazione assistita, gli è stato detto che erano stati congelati degli embrioni, ritorna dopo un anno, hanno detto che gli embrioni non erano abbastanza buoni e sono stati distrutti. Bene, questo in Italia non sarebbe mai accaduto. Quindi in un certo senso vogliono farlo in Italia perché in Italia è più sicuro? Perché in Italia era più sicuro e perché sono cittadini italiani e quindi chiedono affermazioni dei loro diritti in Italia, il paese dove vivono. Sottosegretario Roccella ha già detto che questo è un attacco alla legge. No, in Italia il Far West non è mai esistito, non abbiamo mai visto pistoleri sulla legge 40. Il diritto per una coppia che ha perso il proprio potere riproduttivo, vuoi per malattie, vuoi per un cancro sconfitto, non ha più gameti, il loro diritto a diventare genitori credo che non crei nessun Far West. Basta stabilire delle regole chiare e precise, come erano prima della legge 40. Risponde il sottosegretario Eugenia Roccella, si vuole solo il Far West. Ogni coppia che si rivolge, che trova di fronte un divieto, ovviamente una situazione umana, è una situazione anche di sofferenza spesso, però le leggi si fanno per tutti e si fanno considerando le ricadute sociali. Allora, le ricadute sociali dell'eterologa sono pesanti e un legislatore le deve considerare. Per esempio penso alla compravendita degli ovociti. Lei saprà che non esiste la donazione di ovociti. Ogni volta che si parla di donazione di ovociti tratta sempre di compravendita, di sfruttamento di donne, di giovani donne povere a cui vengono fatti produrre fino a 80 ovociti. È indubbio che c'è spesso un business all'estero atto sulla viaggi delle donne italiane. Sì, guardi, intanto va detto che la propaganda sulla legge 40 sarà così fuori misura che l'Eshre, che sicuramente è, cioè, voglio dire, non è il Vaticano, calcolato che circa la metà delle donne, delle coppie che vanno all'estero potrebbero fare le stesse cose in Italia. Guardi, il maggior flusso di turismo procreativo è dall'America all'India, perché in America si può fare quasi tutto. E seguono il minor costo, ma appunto noi cerchiamo di offrire garanzie. Vertice lampo dei capigruppo di maggioranza oggi, al termine toni più distesi, in diretta da Roma Elisabetta Fiorito. Durato appena mezz'ora il vertice di oggi simboleggia l'accordo nella maggioranza e la volontà di andare avanti, anche se il leader della Lega Umberto Bossi continua a paventare elezioni in primavera. Confermati tutti i presidenti delle commissioni parlamentari, sia il PDL, la Lega che Futura e Libertà smentiscono la previsione però di elezioni imminenti, ma abbiamo sentito poi sono state attualmente smentite da Umberto Bossi. A questo proposito sentiamo cosa è successo dal capogruppo di Futura e Libertà Montecitorio, Italo Bocchino. Come avevamo detto, bastava prendere atto che c'è una terza gamba all'interno della maggioranza, fare dei vertici che tutto può essere risolto facilmente. Per quanto ci riguarda, la data più vicina per il voto è il 2013. Noi sosterremo il governo sino a quel giorno e lo invitiamo a venire in Parlamento con i provvedimenti previsti dal programma che ci impegna con gli italiani. Se poi Berlusconi o Bossi vogliono staccare la spina, lo spieghino loro al Paese, perché noi non abbiamo intenzione di farlo. Da parte del PDL è un segnale distensivo anche la conferma della poltrona più scomoda, quella della Fignana, Giulia Bongiorno, come presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio. Per Fabrizio Cicchitto, capogruppo PDL alla Camera, quindi l'accordo sulla riconferma delle presidenze è il tentativo di andare avanti. Ma Umberto Bossi tuona: spero che il vertice produca risultati positivi, dice il leader della Lega, ma penso che si voterà in primavera. Nessuna ipotesi di governi tecnici. Riguardo a Future Libertà, il leader della Lega spera che abbia poca consistenza, non ci sarà nessuna modifica sulla legge elettorale come vogliono i fignani. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta, tu citavi Bossi ed è stata fatta la pace oggi a tavola tra il ministro Bossi ed il sindaco Alemanno dopo le esternazioni di Bossi sui romani, ricorderete SPQR. Una pace a tavola perché i due si sono visti a pranzo, in piazza, in strada, dove c'era per noi Vincenzo Miglietta. Vincenzo, cosa è successo? Banchetto della pace, per altri una vera e propria sfida culinaria tra la polenta e la coda alla vaccinare. Fatto sta che la polemica innescata da Bossi sulla declinazione di SPQR, che tante reazioni aveva suscitato, sembrerebbe chiudersi come nelle migliori tradizioni intorno ad una tavola imbandita. Per il ministro per la semplificazione Calderoli è una polemica che comunque non è mai esistita. Sentiamo Calderoli. Per me è una polemica che non c'è mai stata. Basta far chiarezza fra la posizione rispetto ai cittadini romani e a Roma intesa come palazzo. Sono presenti anche il presidente della regione Lazio Polverini, quello del Veneto Zaia. La gran ressa intorno ai tavoli ha costretto i presenti prima ad entrare a Montecitorio e poi a tornare in piazza. Di festa comunque si tratta, secondo il sindaco di Roma Alemanno, che parla di un'Italia unita e federale. Ascoltiamo. Il ministro Calderoli innanzitutto è quello che ha portato a compimento il primo decreto legislativo di Roma Capitale e di questo Roma lo ringrazia. Secondo poi io spero che veramente abbiamo chiuso con ogni polemica e che lavoriamo insieme per un'Italia unita e federale. Bravo. Un'altra questione tra Nord e la Capitale resta tuttavia ancora aperta, è quella relativa al Gran Premio di Roma che farebbe concorrenza a Monza. Bossi, con linguaggio colorito che lascia immaginare, di fatto dice: ma dove cavolo lo corri a Roma un Gran Premio? È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, e noi ci spostiamo all'estero. Occidentali sotto attacco terrorista nello Yemen. Oggi ci sono state due diverse aggressioni e c'è anche una vittima francese. Di questa situazione, di questo clima, parliamo e lo ringraziamo per essere in collegamento con noi, con Alberto Negri del Sole 24 Ore. Alberto. Buongiorno a voi. Ecco, si tratta di un ennesimo attacco terroristico e destabilizzante per lo Yemen. Questa volta sotto tiro ci sono gli occidentali e soprattutto da una parte l'ambasciata britannica, che è sempre stata nel mirino delle organizzazioni radicali, in primo luogo di Al-Qaeda, e dall'altra parte il direttore dell'OMV, che è una grande impresa austriaca, una di quelle che hanno ottenuto la concessione per le estrazioni petrolifere in Yemen. Quindi si colpiscono non solo dei simboli politici ma anche economici del paese. Alberto, noi approfittiamo della tua presenza gradita per farti anche una domanda sull'Afghanistan. Oggi sul Washington Post si parla di questi negoziati in corso tra governo e talebani. Secondo te, in un clima anche lì molto pesante, a che cosa potrebbero portare? Ma innanzitutto dovrebbero rappresentare una svolta rispetto allo stallo estenuante, sanguinoso che c'è stato in questi anni. In realtà come finiranno questi negoziati, che devono in qualche modo ancora cominciare, non si sa, però certamente c'è un mutamento di clima, innanzitutto da parte di Karzai, che dopo essersi infuriato quando nel febbraio scorso arrestare il Mullah Baradar, il vice del Mullah Omar con cui lui intratteneva negoziati, con cui anche le Nazioni Unite avevano in corso delle trattative, ecco che adesso arriva questa iniziativa che ha in qualche modo il via libera degli americani e soprattutto di quel generale David Petraeus, che già in Iraq trattò con i sunniti per tirarli dalla parte di Washington. Grazie Alberto Negri del Sole 24 Ore, staremo a vedere. Noi restiamo all'estero, continuano le operazioni di soccorso in Ungheria dopo il passaggio dell'ondata di materiale tossico fuoriuscito da un impianto di lavorazione dell'alluminio. Ci sono state 4 vittime, decine di feriti. Non è ancora chiaro però da cosa sia composto questo fiume di fango rosso. Dire alluminio, piombo e sostanze corrosive è troppo generico, anche se certamente dannoso per l'ambiente. Fabrizio Bianchi dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. In questo momento direi alluminio, direi qualche preoccupazione per il piombo che ho visto che viene riportato e qualche punto interrogativo su questo corrosivo. Non è un problema solo ungherese, siamo ai confini oltretutto con Slovenia, Austria e poi se arrivasse al Danubio e comunque sia, insomma l'Europa ha tutte le competenze, le esperienze e l'organizzazione per affrontare un problema di questo tipo. L'Ungheria stessa che è dotata, è un paese insomma che da questo punto di vista non è certo un paese arretrato. Il Nobel per la chimica è stato assegnato ad uno scienziato americano e 2 giapponesi, Richard Heck, Eiichi Negishi e Akira Suzuki, per aver sviluppato metodi innovativi per costruire molecole complesse, recita la motivazione dell'Accademia di Svezia. Tutti ultra settantenni, Heck e Negishi insegnano in 2 università americane, Suzuki invece in Giappone. Ma cosa sono le molecole complesse e qual è il loro impiego? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto a Maurizio Peruzzini, dirigente di ricerca dell'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR di Firenze. Questi nomi sono nomi con cui comunemente i chimici si confrontano perché a loro sono intitolate 3 importantissime reazioni che vengono correntemente eseguite in tutti i laboratori di ricerca del mondo. Sono reazioni di accoppiamento carbonio-carbonio, che significa costruzione di molecole complesse a partire da frammenti semplici, e non per nulla si parla oggi di accoppiamento di Suzuki, accoppiamento di Negishi e reazione di Heck. Quello che si può fare ricorrendo alle reazioni che i 3 vincitori del Nobel hanno realizzato è quello di costruire sistemi molecolari contenenti anche decine o centinaia di atomi a partire da frammenti semplici con protocolli di sintesi assolutamente accessibili in qualunque laboratorio. Gli usi di queste, le applicazioni di queste molecole quali sono? Diciamo sono i più svariati, cioè possono andare tranquillamente dal disegno di nuovi farmaci alla realizzazione di materiali funzionalizzati con una specifica funzionalità, a materie plastiche intelligenti, a qualunque altra cosa diciamo si possa pensare, quindi una versatilità di impiego assoluta a 360 gradi in qualunque settore. 'Ndrangheta bazooka per il procuratore Pignatone, a Reggio arriva l'esercito. Fecondazione, la legge 40 torna alla Consulta. Primo vertice di maggioranza dopo la nascita di Futuro di Libertà, i finiani conservano tutti gli incarichi. Fiera del libro di Francoforte, cala il fatturato del mercato italiano ma cresce l'export. E buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Dunque in questa seconda parte andiamo subito a Reggio Calabria, dove dicevamo si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e sono state prese decisioni importanti. A Reggio Calabria arriverà l'esercito per la vigilanza dei palazzi della Procura della Repubblica e della Procura Generale. Lo ha annunciato poco fa il prefetto della città calabrese, Luigi Varratta, al termine di una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato anche il procuratore Giuseppe Pignatone e il procuratore generale Salvatore Di Landro. Proprio Pignatone e Di Landro sono stati oggetto negli ultimi mesi, e Pignatone giusto ieri, di pesanti minacce e di intimidazioni da parte delle cosche mafiose. Il comitato, ha detto Varratta, ha condiviso la mia proposta all'unanimità di chiedere la presenza dei militari. In questo momento il territorio, dice Varratta, alla luce anche dell'ultimo fatto di Pignatone, ha bisogno di questa presenza, non molto visibile, ma finalizzata alla vigilanza della Procura e della Procura Generale. E secondo quanto si è appreso, i militari dovrebbero arrivare a Reggio Calabria già nei prossimi giorni. Filippo Veltri, Radio 24, Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Ancora cronaca, ma dalla Liguria a Varazze si contano i danni dopo la violenta ondata di maltempo. Oggi ospite il capo della Protezione Civile Bertolaso. A Varazze il capo della Protezione Civile Guido Bertolaso ha incontrato gli amministratori locali, poi ha compiuto un giro nelle zone alluvionate. Nella cittadina di Verasca si spala fango da 48 ore e gli isolati sono ancora una 50. Alcune strade provinciali restano chiuse, ci vorrà molto tempo prima di tornare alla normalità. Ascoltiamo Bertolaso. Rispetto a quello che è accaduto, la situazione e le conseguenze potevano essere ben peggiori se non si fossero fatti dei lavori di messa in sicurezza negli anni passati. Poi nessuno è perfetto e quindi qualche cosa può sempre sfuggire, ma certamente se quello che è accaduto qui a Varazze e negli altri comuni fosse accaduto in altre parti d'Italia, probabilmente staremmo a contare decine di vittime. Nell'agenda del capo della Protezione Civile, sopralluoghi anche a Cogoleto, dove la sua visita era programmata da tempo per valutare gli interventi di bonifica dello stabilimento Stoppani, e a Sestri Ponente, il quartiere genovese sconvolto dall'esondazione di due torrenti. Nel frattempo proseguono le ricerche di Paolo Marchini, l'operaio di 44 anni travolto da una frana nei pressi di una cava a Panigaro. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Bandiere a mezz'asta giovedì a Prato per ricordare le tre donne cinesi morte annegate ieri in un sottopassaggio, sempre per il maltempo. Sulla polemica scoppiata dopo il rifiuto da parte del sindaco Roberto Cenni a proclamare il lutto cittadino, la comunità cinese, la terza in Europa, ridimensiona i toni. Marco Wong, esponente di Associna, al microfono di Valeria De Rosa. Sono state portate delle affermazioni da parte di una persona molto nota nell'interno della comunità cinese di Prato, che forse sono state un po' forzate, nel senso che la proposta di fare di avere un lutto cittadino non è un qualche cosa che è partito dalla comunità, ma che insomma poi per un difetto di comunicazione insomma così è passo. Io personalmente penso che sarebbe stata una bella idea, perché da altre parti, in situazioni, in circostanze che hanno qualche somiglianza, sono stati concessi tali funerali. Però se nel caso di Prato questo va un po' contro quella che è stata la tradizione, e il massimo che l'amministrazione poteva fare era avere abbassato le bandiere a mezz'asta, penso che comunque sia qualche cosa. Le prime telefonate ai mezzi di soccorso sono state fatte, diciamo, molto tempo dopo l'accadimento del fatto. Questo è dovuto a una questione di diffidenza, a una questione di lingua? Effettivamente capita che in situazioni di emergenza la lingua possa costituire un problema. Un partito degli immigrati, secondo voi, può favorire l'integrazione? Era il tema del nostro sondaggio di oggi in bianco-nero. I risultati: 29% i sì, 79% i no. E adesso ci spostiamo a Milano per parlare dei terreni dell'Expo. Dopo 3 anni si torna al punto di partenza sui terreni dell'Expo 2015 di Milano. Per trovare un accordo, Regione Lombardia, Comune e Provincia di Milano hanno dovuto rispolverare l'ipotesi originaria, quella del 2007, vale a dire il comodato d'uso. In sostanza, i proprietari delle aree, la famiglia Cabassi e la Fondazione Fiera Milano, concederanno i terreni dove si svolgerà l'Expo e le riavranno indietro una volta terminato l'evento. Nel frattempo, i terreni, che ora sono agricoli, diventeranno edificabili e saranno pronti per nuovi sviluppi immobiliari. Tutte le altre ipotesi sul tavolo sono cadute. L'esproprio avrebbe rischiato di generare un mare di ricorsi e l'acquisto delle aree da parte di una società pubblica o di una società pubblico-privata costava troppo per le casse vuote di Provincia del Comune di Milano. È passata quindi la linea del sindaco Letizia Moratti, che puntava al comodato. L'accordo è stato sancito ieri sera dopo un vertice terminato poco prima di mezzanotte tra la stessa Moratti, il presidente della Provincia Guido Podestà, e il governatore lombardo Roberto Formigoni, colui che più si era speso per acquistare le aree per preservare la funzione pubblica anche dopo l'evento, e che oggi appare il grande sconfitto di questa vicenda. Guido Maurino, da Radio Corta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizia appena battuta dalle agenzie: Fitch ha tagliato il rating sull'Irlanda, portandolo da AA- ad A+, con outlook negativo. Vedremo quali saranno le conseguenze anche sulle borse. Intanto c'è un'Italia che si rialza, che rialza la testa dopo la crisi. Ve la raccontiamo ogni giorno. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Oggi siamo a circa un più 12% rispetto al 2009. Nel 2009 abbiamo chiuso l'anno con un meno 20%. Questi i numeri della risalita, secondo Paolo Re, vicepresidente di Recarlo S.p.A., casa di gioielli valenzana, in particolare specializzata dal 1967 nel taglio di diamanti. 40 milioni di euro di fatturato, 1000 punti vendita. E queste le leve strategiche. Abbiamo puntato su 4 punti. Il primo è una distribuzione più qualificata per dare un'importanza diversa al nostro prodotto. Un secondo punto è l'aumento degli investimenti per la brandizzazione della nostra azienda. Abbiamo puntato sulla formazione della rete vendita per avvicinare il consumatore all'artigianalità. Ed infine abbiamo dato una grande attenzione al prodotto. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Aperta oggi a Francoforte la Fiera Internazionale del Libro, l'evento più atteso dagli editori, e al Punto Italia sono stati presentati nuovi dati sullo stato della nostra editoria. Luci e ombre nel rapporto sullo stato dell'editoria curato dall'AIE, l'Associazione Italiana Editori. Nel 2009, per il secondo anno consecutivo, cala il fatturato complessivo, stavolta del 4,3% rispetto al 2008. A portare giù il settore soprattutto la crisi dei collezionabili, ossia i fascicoli in edicola, calati del 31%, e non vanno più neanche le vendite a rate, diminuite del 20%. Ma ci sono fortunatamente anche dati positivi. Il giro d'affari dell'editoria per ragazzi cresce del 4% e cresce il fatturato delle export italiano, più 2,2% nel 2009 rispetto all'anno precedente. Segno che gli scrittori italiani iniziano ad essere apprezzati oltre frontiera, come spiega il presidente dell'AIE, Marco Polillo. Cominciano ad essere più valorizzati all'estero, anche perché ci sono vendite significative in Italia, e quindi ogni volta che un editore si accorge che sul mercato di un paese c'è un autore o più autori o dei libri che vendono molto bene, si incuriosisce e vuole vedere, anche perché c'è sempre la possibilità che quel successo possa ripetersi anche in un altro paese. Altri dati positivi: aumenta il fatturato delle librerie, più 2,5%, soprattutto di quelle di catena, e c'è il boom delle vendite su internet, più 14% nel 2009 e addirittura più 24,5% se si considerano i primi sei mesi del 2010 sullo stesso periodo del 2009. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La musica, mi voglio innamorare di un uomo, anche Tiziano Ferro dalle pagine di Vanity Fair fa outing. Quattro album e oltre 6 milioni di copie vendute. Tiziano Ferro ha il mondo ai suoi piedi, ma vive il periodo più buio della vita, in profonda crisi psicologica e fisica. Dopo 2 anni di analisi, decide di cambiare le carte in tavola. Mi voglio innamorare di un uomo, confessa, confermando le voci su una sua presunta omosessualità che si sono rincorse in questi anni. Tiziano Ferro affida la sua confessione a un libro autobiografico, una raccolta dei suoi diari scritti tra 1995 e 2010. Non è un'apologia di se stesso, non si difende, ma ammette di non aver avuto il coraggio di parlare prima per paura di rendersi troppo vulnerabile. «Voglio vivere quella parte di me», scrive, «smettere di considerarla un mostro, qualcosa di negativo, addirittura invalidante». Ambra Notari, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sport per chiudere con il calcio, le ultime novità su Kakà. Da pezzo da 90 del mercato a campione sempre con la valigia in mano. Strano il destino di Ricardo Kakà. Secondo le indiscrezioni circolanti in Spagna sul quotidiano catalano Sport, il brasiliano, attualmente fermo dopo un'operazione a un ginocchio, sarebbe pronto a passare dal Real Madrid all'Inter. E il tecnico delle Merengues, l'ex interista José Mourinho, avrebbe dato il via libera. Lo Special One non si è mai entusiasmato troppo per l'ex numero 22 rossonero, visto anche l'ottimo rendimento del fantasista tedesco Ozil e la leadership di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio del Real. L'operazione Kakà potrebbe quindi partire ufficialmente a inizio novembre, quando i dirigenti madridisti saranno a Milano per la sfida, prevista mercoledì 3, tra i bianchi di Spagna e il Milan in Champions. Poi non resterà altro che aspettare il mercato invernale e il 3 aprile, quando il calendario regalerà un derby della Madonnina con Ibrahimovic in rossonero e chissà, magari Kakà in nerazzurro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione. Grazie regia a Pietro Lacorte. Ora c'è Italia in controluce. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.